Buona giornata, io sono Matteo Savoldi, admin di Wireless Italia, ed ho il piacere di presentarvi la puntata numero 0 di un nuovo podcast sperimentale che parla di nuove tecnologie e wireless. In questo podcast riprenderemo i contenuti più interessanti del nostro portale e li riporteremo qui. Ma andiamo subito a presentare gli argomenti di questa puntata. Parleremo del progetto Include e dell'associazione Anti-Digital Divide di Wireless Trials Award. Parleremo poi di compatibilità fra dispositivi wireless ed infine di connettività senza fili. Infatti l'ordine degli avvocati di Foggia porta il wireless in tribunale. L'associazione Anti-Digital Divide ci segnala che domenica 5 febbraio a Diano d'Alba in provincia di Cuneo è stato compiuto il primo passo ufficiale del progetto Include per portare la banda larga delle zone attualmente non raggiunte. Anti-Digital Divide ha firmato un accordo con l'associazione dei piccoli comuni italiani secondo il quale presterà la propria consulenza tecnica gratuita ai sindaci dei comuni associati per le questioni riguardanti la banda larga. È stata inoltre firmata una seconda convenzione con i wireless internet provider, i quali garantiranno uno standard minimo comune per le loro offerte e che verranno informati da Anti-Digital Divide delle richieste dei sindaci e degli utenti scoperti al servizio. Ma l'accordo non si ferma qui, questo è solamente il primo passo. Per saperne di più vi consigliamo di consultare il sito www.antidigitaldivide.org. Ma parliamo ora dei Wireless Trials Award, iniziativa che nasce proprio in occasione della sesta edizione del WLAN Business Forum per premiare le più interessanti applicazioni e sperimentazioni nel wireless in ambito pubblico contro il Digital Divide. In collaborazione con il nostro portale, Wireless SRL raccoglierà e premierà i maggiori casi di successo degli enti che si sono distinti per avere dato vita a realizzazioni e a strutture tecnologicamente avanzate al servizio del cittadino. Chiunque voglia partecipare deve leggere il regolamento e compilare il modulo di adesione entro e non oltre il 24 marzo 2006. Tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito www.wirelessforum.it. Parliamo ora di compatibilità fra i dispositivi 802.11b a 11 megabit e quelli 802.11g a 54 megabit. Ora diamo un po' di numeri. Questi dispositivi sono generalmente compatibili ed interoperabili fra di loro, ma ci sono alcune limitazioni a cui vanno incontro i dispositivi a 54 megabit qualora vengono connessi a dispositivi a 11 megabit. Innanzitutto, se connettiamo un client a 11 megabit con un access point a 54 megabit, quindi più veloce, non ci saranno prestazioni maggiori per la scheda a 11 megabit, in quanto la velocità di trasferimento verrà limitata proprio dalle minori prestazioni di quest'ultima. La stessa cosa vale per un collegamento fra un client a 54 megabit con un access point più lento, ovvero a 11 megabit, in quanto le prestazioni vengono limitate dall'access point. Se ad un access point veloce, quindi a 54 megabit, vengono collegati due client, uno operante in modalità a 54 megabit e l'altro operante in modalità ad 11 megabit, le prestazioni subiranno un degrado per la presenza del dispositivo più lento, ovvero quello in modalità 802.11b a 11 megabit. Le performance della scheda 54 megabit, pur degradate, rimarranno comunque superiori a quelle della scheda a 11 megabit. Molto spesso le impostazioni di sicurezza supportate dei nuovi dispositivi in modalità 802.11g, ovvero quelle a 54 megabit, non vengono supportate dai dispositivi 802.11b, i quali normalmente prevedono l'utilizzo del protocollo di criptazione WAP, ma difficilmente forniscono anche un supporto per il WPA o il più recente WPA2. Parliamo ora di connettività senza fili. Infatti, l'ordine degli avvocati di Foggia porterà il wireless in tribunale. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ha infatti deliberato la realizzazione di una rete wireless per concedere ai circa 4.000 iscritti tra avvocati e praticanti la possibilità di collegarsi gratuitamente all'interno delle aree del Palazzo di Giustizia, in cui è presente una rete internet senza fili a banda larga. Il responsabile del progetto è l'avvocato Francesco Celentano, che in una sua dichiarazione dice: in tema di wireless le prestazioni messe a disposizione dalla tecnologia attuale sono molto elevate e le caratteristiche dei futuri standard non possono che incoraggiare la scelta verso soluzioni di questo tipo. Le reti saranno sempre più realizzate in modo wireless, il progetto è modulabile ed il numero di computer potrà crescere senza richiedere ulteriori cablaggi. Il servizio ha poi concluso l'avvocato Celentano, sarà utilizzato integrandolo con adeguate protezioni ed autenticazioni anche per l'accesso al Polis Web e al processo civile telematico. Anche questa realizzazione parteciperà al concorso Wireless Trials Award. Per saperne di più, il sito di riferimento è www.studiocelentano.it. Si chiude qui la puntata numero 0 di questo podcast sperimentale. Spero che vi sia piaciuto e vi invito ad esprimere le vostre opinioni o inviare i vostri suggerimenti presso il mio indirizzo di posta elettronica, che è matteo.savoldi@wirelessitalia.com. Grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata.